diritti, mia moglie è una balena. Beh, insomma, io la notte, quando faccio lavoro con mia moglie, no? Signorine, insomma, signorine, in poche parole, io sono venuto qua per farvi una confessione. Beh, insomma, io la notte, quando faccio lavoro con mia moglie, no? Io che c'entro così? C'entra, c'entra, signorine, come? Però mi sono detto, per Amedeo, andiamo dalla signorina, è vero che ci dà un poco di sollievo. Pretty.